liberato con noi. Che sì, tenei, miedo, che sì, che sì, che sì, tenei, miedo, che sì, che sì, che sì, tenei, miedo.